In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Miei cari amici, vicini e lontani, ovunque voi siate, buongiorno. Oggi è il 28 ottobre 2011, venerdì, si conclude la settimana e come dicono gli americani, thank God it's Friday. Tante cose importanti durante il corso della giornata, della trasmissione, staremo fino alle ore 13, parleremo di poesia con Michele Sarica, poi ascolteremo una bella ricetta dal nostro Alessandro Refice, poi avremo in diretta telefonica altre due persone che ci parleranno di spiritualità e comunque di rapporti familiari. Abbiamo preparato veramente tante cose belle. Ricordiamo oggi che la Chiesa Cattolica festeggia i santi San Simone e San Giuda, quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Simone e auguri anche a coloro che si chiamano Giuda. Però i nostri auguri arrivano, giungano anche alle persone che oggi compiono qualcosa, che so, è il compleanno, una data da ricordare. 0921 92 32 92 il nostro numero telefonico per chiamarci. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Anche in diretta il nostro caro amico Giulio Giallombardo con Sicilia Weekend per parlarci degli appuntamenti di questa fine settimana. Vi ricordo anche il nostro numero di SMS che potete scrivere, quindi tutte le SMS che volete, anche le vostre dediche, le vostre richieste, che è il 335 56 37 251. A tal proposito vi ricordo anche il nostro sito internet, che è www.crmhappyradio.it. Continuiamo ancora a parlare e lo facciamo ricordando che il 28 di ottobre del 1991 a Bari un incendio distrusse il teatro Petruzzelli. poi nel 90, con una mossa a sorpresa, l'Iraq revoca il razionamento di fornitura petrolifera deciso in risposta alle sanzioni economiche globali a cui il paese è stato sottoposto. Ancora musica, lui è Noel Gallagher. Nel 1974 viene rilasciato a Milano il piccolo Daniele Alagna. Secondo indiscrezione, la famiglia avrebbe versato ai rapitori circa 3 miliardi. Nel 77 il Consiglio dei Ministri decide la proroga del blocco degli affitti fino al 31 gennaio e di rinviare a 4 mesi le procedure per l'esecuzione degli sfratti. Nel 1979, sempre il 28 ottobre, allo Stadio Olimpico di Roma, durante la partita Roma-Lazio, un razzo uccide un tifoso, Vincenzo Paparelli. Continuiamo ancora con la musica. Questa è la prima richiesta. Salutiamo Alessia, che ci ha richiesto Jennifer Lopez, e questo bel pezzo che ci darà l'opportunità di metterci in piedi e cominciare a muoverci un poco, intitolato Papi.

Mangia Italiano e Vivi Meglio, manifestazione che partirà oggi da Cefalù, quindi fino al 1° novembre 2011. CRM sarà in diretta da Piazza Duomo dalle 19 alle 22, quindi ci saranno tante occasioni per incontrarci, ma soprattutto per conoscere meglio come è giusto mangiare. Consigli commerciali, poi il CRM Notizie, poi rientreremo in studio con una canzone che noi abbiamo targato. Slalom Flashback. Una chitarra, 100 illusioni e tu negli occhi miei. Erano i giorni che al nostro amor bastava appena un po' di sole. Oggi che la vita mi può dare tanto, mi sto accorgendo che non ho niente, tu non sei più con me. Una chitarra, 100 illusioni ed io nei sogni tuoi. Quando cantavo avevo un cuore, tu sola mi dicevi bravo. Oggi che la gente mi sorride sempre, la mia chitarra diventa triste e piange insieme a me. Vita della mia vita, dove sei? Se tu sapessi il male che mi fai, oggi che posso darti ciò che vuoi, tu non sei qui. Accontentiamo tutti con la musica questa mattina. Lo abbiamo fatto anche con Mino Gaetano, che è stata comunque una richiesta da una signora che ha chiamato e che ha chiesto proprio una canzone di qualche anno fa. Io ho trovato nell'archivio di CRM Happy Radio questa canzone, mi è piaciuta e l'ho messa. Salutiamo tutte le signore di una certa età che amano e apprezzano ancora queste canzoni di qualche anno indietro. Vi ricordo che lunedì 31 ottobre 2011 dalle 17 alle 18:30 CRM Happy Radio sarà in diretta presso il supermercato PAM di Cefalù in occasione dell'estrazione del biglietto vincente del concorso organizzato per i clienti del supermercato PAM Ferdico di via Cirincione Cefalù. Vi ricordo un po' come funziona: per ogni spesa di valore uguale o superiore a 35 euro il cliente avrà diritto a concorrere all'estrazione di un voucher per una crociera di una settimana per due persone sul Mediterraneo con partenza entro il 13 novembre 2011. Quindi noi saremo lì, faremo questa estrazione, verrà quindi in diretta radio e in diretta sia audio che video sul nostro sito web crmhappyradio.it. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Continuiamo con la musica, rientriamo nei giorni nostri, non prima di avervi ricordato che oggi è il 28 ottobre, dato la nascita a Julia Roberts. Pensate, nel 1967 nasceva questa bella bambina americana. A junker heart is junk in my mind, so hard to leave you all alone. Get so drunk that we can hardly see.

L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico, non importalo, amalo. Se fai il bene ti attorbiranno secondo i fini egoistici, non importa, fai il bene. Anche oggi, come già detto prima, abbiamo in linea telefonica il nostro caro amico Michele Sarrica. Ciao Michele, come stai? Ciao Francesco, che bella accoglienza, che belle parole, non degne di me, chiaramente. No, assolutamente. O quantomeno non degne di me nel senso che sono troppo alte o io sono troppo basso per essere contrario, praticamente. Allora, prima avevo detto che successivamente avremmo in diretta, avremmo avuto in diretta Michele Sarrica, il bravo poeta Michele Sarrica, e anche il bello, ho detto, però non vorrei il bello. Creare mettici pure il buono, il cattivo. No. Diciamo, per quello che ci conosciamo da tanti anni, mi posso permettere anche di esprimere questa. Ma infatti io parlo sempre per eccesso, anche per questo motivo. Dico, le tue parole non sono degne di me perché non è vero. Chiaramente sono molto, sono parole molto, molto belle, molto alte, che sublimano chiaramente chi l'ascolta, sublima anche l'animo di un poeta, di ogni uomo comune, si mancherebbe altro. Okay. Questa accoglienza in una giornata, diciamo così, bella, perché c'è una giornata bellissima da nostra parte. Qui a Cefalù è veramente eccezionale. Eccezionale, quindi. Un saluto veramente e un pensiero a tutte le persone che in questo momento in Liguria, in Toscana, stanno vivendo un momento veramente difficile. Mi associo a questo tuo augurio e speriamo che l'uomo comprenda prima o poi quanto rispetto si bisogna dare alla natura. Perché poi prima o poi, come vediamo, la natura si ribella e le conseguenze sono quelle che abbiamo sotto gli occhi molto spesso, purtroppo, troppo spesso. Sì, effettivamente è così. Senti, ritornando qui in casa nostra, volevo farti una domanda. Stamattina facendo strada da Palermo a Cefalù, pensavo, ma come nasce una poesia? Come si fa a capire che quella sia una poesia oppure no? Cioè, dico, dov'è l'ispirazione? Come sei? Francesco, hai proprio voglia di mettermi in disagio. Quindi, io scrivo, e quindi tu lo sai, certo, mi fai una domanda che dovrebbe essere far parte del mio recinto di capacità di risposte. Beh, come nasce una poesia? Incominciamo da come nasce una poesia. Non si sa, è un mistero. Io ho una mia teoria un po' metafisica, perché io penso che la poesia esista fin da quando c'è stato il primo balbettio dell'universo, diciamo Big Bang per intenderci, cioè il dove lì, in quella massa così che esplose, quindi si ha formato, almeno secondo certe teorie del Big Bang, allora chiaramente lì, in quel momento, c'era tutto. C'eravamo noi come in nuce, chiaramente, c'era il mondo, la terra, l'acqua, c'erano le parole, i suoni, i colori, e quindi c'era anche la poesia. Quindi io mi reputo non un poeta nel senso come noi lo definiamo, io mi reputo una radio ricevente, ecco, perché quel segnale, diciamo, è stato già lanciato nel tempo, da tanto tempo. Quindi ora noi, se siamo capaci, ecco perché a volte la differenza tra chi sa cogliere meglio certi aspetti, più o meno, perché dipende anche dalla potenza dei watt della radio che abbiamo incorporato. E quindi io non faccio altro che captare. A volte quei messaggi possono essere un po' fuorvianti, perché o possono essere l'input di qualcosa di piacevole. Certo. E in ogni caso non è che detto che quello sia poesia, attenzione, perché poi c'è un'elaborazione razionale, la nostra preparazione, il nostro amore, l'attaccamento alla poesia, quindi c'è tutto, diciamoci tanto, c'è per un capirci. Insieme di cose che fanno sì che poi diventa realmente poesia. Certamente, perché poi tra le tante cose che si scrivono, che il poeta così un po' presuntuoso reputa che siano degne di Dante, poi quelle cose, quelle 100 cose che invece non sono degne di nessuno, ci porteranno a scrivere la poesia. La 101esima potrebbe anche essere la poesia. La seconda domanda, non ricordo cosa dicevi tu, fa? Mi hai quasi risposto, perché dico, io ti avevo chiesto come si fa a capire che quella realmente è una poesia, però in linea di massima mi hai dato, certo, ecco, un'indicazione anche su quello che tu mi avevi detto. Sì, questione anche di gusti, questione di certo, più o meno ti colpisce anche di stati d'animo, aspetti, secondo... Anche di stati d'animo. Certo, quando sei più coinvolto, il tuo stato d'animo è coinvolto in una vicenda, in una situazione sentimentale, in qualcosa che ti ha maggiormente colpito, impressionato, è chiaro che dove c'è la verità, dove c'è la compartecipazione del tuo animo, c'è la verità, c'è più verità e quindi c'è più poesia, secondo me. Perché elaborare una poesia sulla Gioluminante della Liguria, eccetera, eccetera, siamo tutti capaci di farlo perché, grazie a Dio, sappiamo leggere, l'analfabetismo in Italia è un po', diciamo, va, è tramontato da tanto tempo. Però, diciamo, quello diventa un fatto razionale. Io parlo della Liguria, dei morti, in maniera molto affettuosa, a volte anche pietistica, perché si cade a volte in questo baratro, capisci? La pietas non fa poesia, né i buoni sentimenti. Ecco la cosa che mi preme dire, perché molti confondiamo i buoni sentimenti con la buona poesia. Cioè, sono due cose distinte e separate. Non so, io posso parlare anche di terrorismo e fare buona poesia, come posso parlare di mia madre e fare pessima poesia, faccio gli opposti per intenderci. Quindi la poesia, poi il poeta decide quando deliberarla, quando dire: beh, questa mi soddisfa, questa raccoglie un po' tutti i miei stimoli sentimentali, emotivi, culturali, eccetera, eccetera, e quindi mi soddisfa. Allora ecco lì il momento della deliberazione della poesia. Ho capito. Senti, io volevo ricordarti anche dell'appuntamento del libro, della presentazione del libro che sarà giorno 30, se non vado errato. Domani pomeriggio, dove sarà? Così magari. Domani pomeriggio allo Steri, Palazzo Steri di Piazza Marina, a Palermo, alle ore 16:30. Perfetto. L'ingresso è gratuito. Come? L'ingresso è gratuito, funziona? Sì, ma che c'è? Guarda, se venite vi paghiamo noi. No, dai. Troppo buono. Comunque presenterò il libro questo mio amico Guglielmo Peralta. Il titolo, te lo ripeto, è Ombres. Ed è un bellissimo libro. Io sarò lì a leggere soltanto alcuni brani di questo, insieme alla bravissima Alessandra Balletti, che è figlia di un amico mio, insieme a me leggerà un parte di questo libro, cioè alcuni brani. Va bene. Allora, l'appuntamento quindi per domani pomeriggio a Palazzo Steri, Piazza Marina. Ok, adesso ci delizierai con una tua poesia, noi ci sentiremo sempre lunedì prossimo se tu lo vorrai. Ma come no? E quindi ti auguro un buon fine settimana. Ma come no? Ma lo sai che questo, diciamo, questo appuntamento... Oramai è diventato... No, adesso mi sta prendendo un po', perché sai, tu le prime volte magari quella cosa così, quell'ansia che ti prende, perché mi prende di partecipare alla trasmissione radiofonica. Io non sono abituato a parlare, quindi molto a parlare, quindi mi piace di più scrivere che parlare, a dirci la verità. Però ovviamente questa cosa poi ti prende, ti lascia andare ed è piacevole. Ho capito, va bene. Allora Michele, buon fine settimana, ascoltiamo con estremo piacere la tua poesia e noi ci sentiamo, sia io che i nostri radioascoltatori di CRM e P-Radio, lunedì prossimo, va bene? Mi farà tanto piacere, anche perché noto che la tua capacità, la tua serietà e anche diciamo l'amore che hai verso il mezzo radiofonico e anche verso la poesia. Perché tu in fondo, ecco, sei un poeta che non scrive, ma lo sei nell'animo. E quindi mi fa tanto piacere. Questa poesia la dedichiamo agli innamorati, come sempre. Perfetto. Così la lasciamo con questa dolcezza, diciamo, nell'animo. Ed è intitolata Angeli del Sole. Ok. Quante volte ancora sorprenderai l'allodola sui laghi, finirti dentro l'anima, e stupirsi. E quante volte ascolterai i miei occhi parlarti risorgente fra le braccia e giorni nuovi e tempo mai vissuto. Nelle tue mani approda il nostro mondo, l'antico abbecedario di promesse che il destino, il nostro di sovrani, ha schiuso come labbra di testate. E siamo soli, angeli del sole, attenti a non sciupare la dolcezza. Grazie e buona giornata a tutti. Slalom. Flashback. I want a little sugar. in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. You've been acting different, I've been told. Soothe me, I want some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl.

L'appuntamento di lunedì 31 ottobre 2011 dalle 17 alle 18.30 CRMP Radio sarà in diretta con il programma On the Road condotto da Robby D'Antoni dal supermercato PAM di Cefalù in occasione dell'estrazione del biglietto vincente del concorso organizzato per i clienti del supermercato PAM Ferdico di via Cirincione a Cefalù. Vi ricordo che per ogni spesa del valore o uguale o superiore di 35 euro il cliente avrà diritto a concorrere all'estrazione di un voucher per una crociera di una settimana per due persone sul Mediterraneo con partenza entro il 13 novembre del 2011. Per partecipare dovrà di suo pugno scrivere i dati personali, quindi nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e così via, e firmare lo scontrino originale che sarà imbucato nell'apposita urna di fronte alle casse. L'estrazione avverrà in diretta FM Radio e in audio e video sul nostro sito web crmepiradio.it attraverso il rinvenimento casuale di uno scontrino contenuto nell'urna effettuata alla presenza di un notaio o funzionario pubblico incaricato. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Continuiamo con la musica. 0921 92 32 92 335 56 37 251 e questa è Slalom, una trasmissione che vi sta portando mano manina fino alle ore 13. Non è soddisfatta delle manicure, chiama il 911, ora ne parliamo. Chimbalaie quando vejo sol beijando o mar. Chimbalaie toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie quando vejo sol beijando o mar. Chimbalaie toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador em mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Chimbalaie, yeah. pra aprender que uma flor tem vida ao nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador em mar e o anzol. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras, viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira, me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Una parola inventata, ha dichiarato Maria Gadù quando è stata intervistata, dicendo che questo nome è proprio il ricordo che lei ha da piccola per quanto concerne il rumore delle onde marine. Continuiamo ancora con la musica, lei è la bella Dido. La sentiamo con White Fly. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this shit, and I won't put up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. quindi non è soddisfatta della manicure, chiama il 911 e l'operatore dall'altra parte risponde che questo non è sicuramente il mezzo per poter dimostrare che non era soddisfatta della manicure. Ma non contenta di ciò, la signora ha detto che la persona detta al centro di bellezza, al salone di bellezza, l'aveva minacciata prendendo una formicina, e quindi praticamente la polizia è stata costretta a mandare una pattuglia per capire realmente quello che fosse successo. Ma non contenta di ciò, la signora ha richiamato perché il poliziotto ritardava. Ancora musica. Lori del Santo, che passano gli anni, però lei si mantiene sempre abbastanza delicata. Ricordate del drive-in? Ora, appena dopo la pubblicità, ne parliamo di quello che è. Slalom. Flashback. Anche quello che non so.

nel modo di approcciarsi alla relazione familiare tra l'uomo e la donna. C'è una differenza fondamentale che a volte è causa di un grosso equivoco tra due persone che vanno a vivere insieme, perché quando si è fidanzati tutto va bene, perché ci si incontra rose e fiori, in luoghi così diversi, troppo ameni, ci si diverte, cerchiamo di parlare e di farci vedere nella nostra veste migliore. Quando poi invece si vive insieme, cadono le maschere delle persone e si è quello che si è. E la donna fondamentalmente ama in un modo diverso rispetto a quello dell'uomo. Ho capito. In che senso? La donna ama con le piccole cose, si occupa delle piccole cose, le sfumature, si occupa di tutto nella casa, i compleanni, le ricorrenze, invitare il nonno, la nonna, è la memoria storica della famiglia la donna. L'uomo invece, e questo proprio per un suo modo strutturale di essere, quindi è una questione antropologica, proprio di un modo di essere uomo, ama la sua famiglia al lavoro. Quindi quando lui lavora, lavora per la sua famiglia, e già questo amore interpersonale lo ha riversato nel lavoro. Quindi quando torna a casa non si occupa delle piccole cose, magari neanche di ascoltare tanto la moglie, perché le dà fiducia, sa che è lei che si occupa delle cose della famiglia. Questo naturalmente provoca nella donna una grande delusione, perché vorrebbe partecipare a quella parte di vita che lei ha vissuto in casa, specialmente se è casalinga, e quindi magari aspetta che torni suo marito, suo compagno, la persona che vive con lei, lo aspetta per riversargli un poco il suo mondo, la sua vita, e invece trova una persona partecipe, che magari è stanca e si mette sul divano e magari non vuole ascoltare nessuno. Questa non è una mancanza di amore da parte dell'uomo, questa è una cosa che la donna deve sapere, perché è una mancanza forse di attenzione. Meglio questa cosa, se sa che è una diversità e non è il fatto che lui non la ama, non la ama più comunque. Quindi questo secondo me è un equivoco di base che bisogna togliere di mezzo. L'uomo ama così, ma non deve restare per sempre così. La donna, che è da sempre mediatrice, deve aiutare l'uomo ad essere più sensibile alle cose della famiglia, però non battendo i pugni sul tavolo. Cioè, da sempre con l'uomo non ha funzionato mai la forza. Io ammiro sempre e guardo sempre alla vita della mia nonna, che in fondo faceva tutto quello che voleva a casa sua, però dava al marito sempre questa aria di essere il capofamiglia e godeva di un'assoluta libertà. Naturalmente ci sono tanti casi nella vita, e io sto generalizzando, ma non posso scendere nei particolari, certo, naturalmente. Professoressa, mi scusi un ognuno attimo. Ognuno ha i suoi, come dire, punti di riferimento, ecco, da combattere. Però fondamentalmente pensiamo un attimo a questo, che non è che l'uomo quando torna a casa non vuole ascoltare nessuno perché non ama. Non vuole ascoltare nessuno perché è stanco, la casa è il luogo del suo riposo. E infatti provate a chiedere a un uomo, no niente, tu non mi ami più, ma come, mi sono ammazzata la vita per te, questa è la risposta, ho lavorato tutta la giornata per te. Ed è vero, non è una bugia, è vero, lui ama così. Allora il lavoro che deve fare una donna è quello di fare da mediatrice, come sempre comunque facciamo di solito, no? Magari gli diciamo, senti, dovresti parlare con questo figlio perché magari non va bene a scuola, oppure ha un problema con la fidanzata, oppure mi pare che c'è qualcosa che non va. L'uomo non si accorge normalmente di questo, ma non perché sia distratto e non vuole bene, perché lui va per sommi capi in tutte le cose, la donna va invece per le piccole cose. Quindi questo, diciamo, come incontro iniziale, mi pare che potremmo, diciamo, fino al prossimo incontro monitorare un poco questa situazione e vedere se è vero. Ho capito. Professoressa, una cosa volevo chiederle. Sì. Ma questo perché l'uomo durante gli anni si è trasformato? Cioè, nel senso, ci sono parecchi impegni al di fuori che hanno reso un po' pieno di distrazione l'uomo? O però perché è sempre stato così l'uomo? L'uomo è sempre stato così. Mm. La donna si è un deve... modo, guardi, questo c'è una bellissima lettera del dunque non è una lettera del Papa, c'è proprio una spiegazione antropologica che però merita, diciamo, un tempo maggiore di quello che noi abbiamo a disposizione. L'uomo ha questo limite del suo lavoro, lo vede come la cosa più importante della sua vita. Un insuccesso nel lavoro per l'uomo è la fine del mondo, la fine della sua vita. Per la donna no, la donna ha sempre un altro mondo in cui riversare anche tutte le sue pene, non so, ai figli, la casa. Per la donna invece il limite sono proprio i figli. Ho capito. Nel senso che lei spesso commette un grande errore, che è quello di riversare sui figli tutto quanto e trascurare il proprio parto. Ho capito. Professoressa, io credo che oggi è stato... Come? Mi ascolta, professoressa? Sì, sì. Allora, io credo che oggi sia stato il primo incontro telefonico sia con la trasmissione sia anche con i radioascoltatori. Ci daremo appuntamento anche per la prossima settimana. È disponibile un secondo incontro? Sì. Ok, quindi magari cercheremo anche di cercare di interagire anche con i nostri ascoltatori per capire le problematiche che possiamo affrontare con loro. Va bene. Ok, io la ringrazio, le auguro buona giornata e buona vita. Grazie a voi. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Slalom, flashback. Abbigliare continuiamo ad avere ospiti in diretta telefonica ed è giunto il momento del nostro caro padre Angiolino di Lizia. Buongiorno padre. Buongiorno a voi. Allora, oggi è una bella giornata qui a Cefalù, penso altrettante anche qui a Palermo. Anche qui a Palermo, ecco. Allora, noi questo è il nostro secondo appuntamento per quanto riguarda la presentazione della liturgia della parola di domenica prossima. Volevo puntualizzare una cosa. Io gli ho dato una lettura perché essi dicono ma non fanno. Mi ha colpito un po' questa parola, questa frase. Essi dicono ma non fanno è un'ipocrisia che Gesù maschera, perché mettono sugli altri dei pesi e che loro non mettono in pratica. E Gesù se la prende molto con gli ipocriti, perché innanzitutto ipocrita è un termine greco che significa attore di teatro, e uno fa un qualcosa che non è suo, riporta delle immagini, delle parole di altri. E l'ipocrisia è qualcosa che Gesù non gradisce, non accetta. Bisogna essere sinceri, quello che uno vive lo può comunicare agli altri. Cioè non bisogna far finta, ecco, di credere, di parlare, ma bisogna soprattutto vivere. E Gesù è un aspetto che tratta nel Vangelo di domenica prossima, questa di essere o apparire. L'attore appare, ma l'essere bisogna vivere da di dentro. È una cosa molto bella, ma è difficile oggi in una cultura soprattutto dell'immagine. Vogliamo sempre apparire più belli, più bravi, più potenti, di più rispetto agli altri. E invece Gesù ci invita al servizio. In pratica la seconda parte del Vangelo di domenica, Gesù parla del potere: non fatevi chiamare maestro, rabbì, ma uno solo è il vostro maestro, il Signore. Voi siete tutti fratelli. E qui c'è il tema anche della fratellanza, perché il Signore capovolge tutto. Per noi è più importante avere il potere, comandare sugli altri, soggiogare gli altri, alle volte anche con la violenza, con la cattiveria, come assistiamo in questi giorni. Ma Gesù ci ricorda che per Lui è importante essere a servizio degli altri, come Lui lo è stato con noi. E servire gli altri è quello che il Signore guarda di più. Tante volte il Signore guarda quella mamma di famiglia che a casa prepara da mangiare, sistema, perché ama i suoi, oppure quella persona che di nascosto fa del bene, nessuno lo nota, ma il Signore lo nota. E tante volte noi facciamo le cose solo per apparire, e qui ci troviamo in difficoltà come cristiani, perché anche nell'ambito religioso e ecclesiastico noi siamo belli e bravi a fare le devozioni, le novene, ma poi in pratica non ci accorgiamo di chi ci sta accanto, che è il nostro fratello, che ha bisogno di ascolto, che ha bisogno, ecco, di tutta la nostra pazienza. Ecco, un po' questo è un po' il tema che Gesù sviluppa nel Vangelo di domenica: l'essere o apparire, la seconda parte, l'amore per il potere che è presente in ogni persona. E lui dà una ricetta: il più grande è chi ama di più. Ho capito. Padre Angiolino, le volevo fare una domanda che esula da quella che è la liturgia della parola di domenica. Abbiamo sentito, abbiamo letto anche sul giornale della Madonnina rimossa in una scuola di Palermo a Borgo Mulara. Cosa ne pensa lei, che è comunque una persona di chiesa e quindi automaticamente un po' sicuramente si sente maggiormente toccato rispetto a noi che siamo, certo, cattolici? Ecco. Ma innanzitutto dobbiamo mantenere ferma la nostra identità cristiana, la nostra cultura cristiana. Chi viene da fuori deve accettare che qui in Italia c'è una cultura che è una tradizione cristiana, e non può una persona imporre agli altri le proprie idee. Noi rispettiamo la sua e loro rispettano la nostra, si devono adattare. Io tempo fa ho fatto un pellegrinaggio con la diocesi di Frascati in Iran, e lì non si può andare con i segni religiosi, con i crocifissi, perché è proibito. Uno va lì e si adatta, non sta attento a non mostrare apertamente questi segni religiosi e vive tranquillamente. Non è che impone a loro: io voglio portare la croce perché sono credente, sono religioso, sono cristiano. Uno si adatta, perché il rischio qual è? Che adesso è soltanto episodi rari, poi man mano va avanti, ecco, diventa maggioranza e noi rischiamo di scomparire e la cultura musulmana soprattutto prenderà il sopravvento, e questo bisogna reagire nel rispetto reciproco, sono loro che devono adattarsi a noi, non noi a loro. E poi la Madonna non fa male a nessuno, la Madonna è anche nel Corano, è descritta come la madre di Gesù. Io sono stato anche a Efeso, dove la Madonna ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, e in quella cappelletta in mezzo al bosco anche i musulmani vanno ad adorare e vanno a pregare in quella cappella dove c'è la Madonna, il che vuol dire che è soltanto una provocazione per imporre anche la loro cultura e cancellare la nostra. Ho capito, quindi allora quindi possiamo sottolineare il fatto che la scuola si è trovata impreparata alla realtà multireligiosa. Meno male che i genitori hanno reagito e sono stati da preside e hanno rimesso al suo posto quel simbolo religioso. Ho capito. Padre Angiolino, io la ringrazio, sicuramente la ringraziano anche i nostri radioascoltatori qui di CRM Happy Radio, di Cefalù e della provincia di Palermo. Il nostro appuntamento rimane sempre fissato per venerdì prossimo. Grazie e buona vita. Buona giornata. Grazie, grazie Padre Angiolino. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Continuiamo con gli ospiti, adesso è il momento giusto per preparare il pranzo e lo possiamo fare anche consigliato da un nostro caro amico che puntualmente ci raggiunge al telefono, Alessandro Orefice. Ciao Alessandro. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio CRM. Grazie. Ben ritrovati al nostro appuntamento consueto con la ricetta del giorno. Perfetto, cosa ci preparerai oggi? Bene, oggi andremo a preparare un timballo di rigatoni gratinato all'ortolana. Piatto semplicissimo e che possono realizzare le nostre carissime amiche che ci ascoltano da casa. Praticamente andremo a mettere in un piccolo tegame un litro di latte con 60 g di burro e 60 g di farina setacciata, una presa di sale, pepe e un pizzico di noce moscata. Questa è la dose base per andare a preparare una buona besciamella. Praticamente la porremo sul fuoco e quando raggiungerà l'ebollizione la salsa sarà pronta. A parte prepareremo un fondo con una cipolla julienne che andremo a saltare con un po' di burro. Addizioneremo delle zucchinette, dei peperoni, delle melanzane, quello che comunque di norma si tiene quasi sempre nel frigorifero, le faremo spadellare e andremo praticamente ad insaporire con del sale e del pepe ed un trito di salvia e rosmarino possibilmente freschi. Non appena saranno ben cotte, quindi basta comunque lasciarle anche croccanti, ma devono essere appena appassite, le andremo ad addizionare alla besciamella che avevamo precedentemente preparato. Dopodiché metteremo in cottura i nostri rigatoni che dovremo togliere dal fuoco abbastanza al dente. Praticamente non dobbiamo far raggiungere la metà della cottura. Li scoleremo, li andremo a mettere all'interno della nostra salsa, amalgamiamo per bene con una buona manciata di parmigiano reggiano e poi andremo a porre il tutto in una placchetta che dobbiamo leggermente imburrare e passare con del pane grattugiato. Non appena mettiamo il composto dentro, quindi i nostri rigatoni già ben salsati e conditi, andremo a mettere in forno alla temperatura di 190-200 gradi per circa 12 minuti. Quando vedremo che sarà ben gratinata, la tireremo fuori dal forno, la lasciamo riposare almeno un quarto d'ora in maniera tale che il timballo si rapprenda e poi si può tagliare a modi, noi diciamo nel nostro gergo, a mattone, in maniera tale che possa essere tirata su come una normalissima pasta al forno. Un piatto veloce, molto succulento e comunque che possono mangiare tutti, soprattutto i bambini, che piace tantissimo la pasta al forno. Vero, vero. Allora Alessandro, io volevo suggerire una cosa, vediamo se tu sei d'accordo, di cominciare a scrivere queste ricette. È chiaro, è chiaro. Prima, per due motivi, prima perché sono sempre importanti, ora andiamo incontro alle festività natalizie e quindi magari ci si sprigiona in tante diciamo fantasie. Un'alternativa graziosa anche appunto nelle festività per non proporre sempre le solite lasagne, la solita pasta al forno. E poi un'altra cosa, perché stiamo preparando anche con la redazione di CRM un concorso, un quiz, e che è molto molto probabilmente lo veicoleremo attorno alle tue ricette. Bene. Benissimo, okay. Benissimo. Allora, quindi rimane soltanto di far preparare carta e penna alle nostre ascoltatrici, ai nostri amici che ci seguono. Indubbiamente, ecco, quindi questo è il suggerimento, cominciate a scrivere queste ricette perché poi vi serviranno per rispondere esattamente a un quiz che stiamo preparando all'interno della radio. Alessandro, io ti ringrazio della tua collaborazione, il nostro appuntamento è per lunedì sempre. Niente, come... gentilissimi come sempre, auguro buon ascolto a tutti i nostri amici ascoltatori di Radio CRM. Ok, buona, buona vita, giornata e buon ciao, pranzo. Buona vita e buon lavoro. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Slalom. Flashback. Bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre, sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché, invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Pianse anch'io la prima volta, diceva e non capiva perché stavo ferma e zitta, ma ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte. Gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi. Amore, gli uomini che cambiano sono quasi un ideale che non c'è, sono quelli innamorati. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Continuiamo con la musica italiana, lo facciamo adesso con il bravo Tiziano Ferro. Questa è una richiesta giunta ai nostri numeri telefonici. La canzone di ultima fatturazione che sta andando veramente a gonfie vele. La differenza tra me e te. La differenza tra me

gozza dolce, ne gozza bella, donami la vasa terra, amore mio, gioia dell'arma, nello me core, lo fuoco karma, sogno capace per te a soffrire, se tu non mami è meglio morire, se tu pezzito tu scegli a mia, io ti marito quando vuoi. Pace per te a soffrire, se tu non mami è meglio morire, se tu pezzito tu scegli a mia, io ti marito quando voto. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. La conoscevate questa canzone dei Tinturia, Nicuzza? E noi ve l'abbiamo riproposta questa mattina, musica sempre italiana. Lei è Simona Molinari e Peter Cincotti. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che Simona Molinari e Peter Cincotti insieme. Continuiamo ancora con la musica italiana. Questa è una richiesta giunta ai nostri numeri telefonici, non prima di avervi ricordato di mangiare sano e italiano e vivere meglio, che è l'appuntamento qui a Cefalù. Ti cerco solo quando poi ho voglia di assaggiarti e di confonderti. Me l'hai insegnato tu, che quando scappi e sei distante

appariscente, invidiata, invadente, volgare, indecente, violenta, incandescente, ma è la mia città. Voce incosciente, insidiosa, insolente, amara, ammaliante, miracolata, irriverente, ma è la mia città. Domani chi lo sa, vedrai che cambierà, magari sarà vero. Ah, non cambierà mai niente, se ci credo solo io. Solo abbandonata, invisibile, spiata, fiera, disprezzata, feroce, incontrollata, ma è la mia città. Colta, raffinata, aggredita, infamata, muta, scanzonata, superstiziosa, spregiudicata, ma è la mia città. E domani chi lo sa, vedrai che cambierà. Ci credo solo io. Allora, 31 ottobre 2011, dalle 17 alle 18.30, CRMP Radio sarà in diretta con il programma On The Road, condotto da Robby D'Antoni al supermercato Fame di Cepavolù, in occasione dell'estrazione del biglietto vincente del concorso organizzato per i clienti del supermercato Pam Ferdico di via Cirancione a Cefalù. L'estrazione avverrà in diretta radio e in diretta radio FM e in audio e video tramite il nostro sito web, che è crmpiradio.it. Attraverso il rinvenimento causale di uno scontrino contenuto nell'urna, effettuato alla presenza di un notaio o un funzionario pubblico incaricato. Vi ricordo inoltre l'appuntamento che parte questa sera per quanto riguarda Mangia Italiano e Vivi Meglio, manifestazione che si svolgerà a Cefalù, quindi praticamente gli appuntamenti non mancheranno assolutamente. Poi vi ricordo che a seguire ci sarà Day by Day, On the Road, Talk Talk, Freestyle, Rock Revolution, e avrete tanto da che spaziare con tanta gusti musicali e tante cose. Da Francesco Puglisi è tutto, vi auguro buona vita, e se il buon Dio lo vorrà, noi ci risentiremo lunedì mattina, stessa radio, stessa frequenza.